Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Biancaneda in redazione, oggi Pietro Lacorte in regia per Palla Spicchi. Qui con me un nuovo amico, non è ancora venuto a trovarci, questa è la prima di tante altre volte, io spero, Francesco Monfardesci da Sky. Ciao Francesco e grazie. Ciao a tutti, un piacere anche per me. Siena è una squadra anche dimezzata, trova le risorse che servono per vincere sempre e comunque, o quasi sempre e comunque, anche a Istanbul col Galatasaray. Cantù è una super squadra che trova le risorse per andare oltre i suoi limiti oggettivi. Milano non lo è, e solo a questo punto, come sapete, in Eurolega è un gioco di incastro dei risultati. Milano deve vincere con lo Charleroi al prossimo giro, sperare che il Partizan, che si è suicidato proprio in Belgio ieri, perda a Madrid e poi andare a vincere al Pionier di Belgrado, già cosa difficile per tutti, figuriamoci per l'Armani di questi tempi, ribaltando il meno 4 dell'andata. Insomma, appeso un filo, una speranza anche un po' crudele per Milano, che non sembra avere le forze per riuscirci. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Hai visto che abbiamo Bonfardesci qui? il mitico Bonfa. Ciao coach. Ciao Bonfa, sono qui con Niccolò Trigri a Sport Italia e compagnia, e quindi ciao Bonfa. Una bella carrambata. Coach, Milano appesa un filo sottilissimo, probabilmente non ce la farà, manca il timbro del giudice. Esatto, ma ovviamente fra dire e fare c'è sempre il mare, Milano deve battere Charleroi, Real Madrid, che è la squadra più in forma in Europa probabilmente adesso, deve battere Partizan, poi l'ultima data, l'ultima giornata, la decima, Milano va a Belgrado e deve vincere di 5 punti per accedere al top 16. È chiaro che questa è la legge, devono vincere due partite anche per un punto contro Charleroi più 5 contro Partizan, però destino sembra di essere nelle loro mani, non potevano a questo punto chiedere di più perché sembravano eliminati, adesso sono, come hai detto tu prima, una boccata di ossigeno l'hanno preso. Sì, coach, si è detto, non era un tiro ignorante, era un missile intelligente, quello di Basile. E Basile è veramente un fenomeno, lui è un super campione, veramente un acquisto super indovinato da Bruno Arrigoni e Cantù, perché classe 1975, lui, Marco Nato, Mazzarino e i ragazzi sono veramente, veramente fenomenali, complimenti. Lui è veramente, è la mia definizione della parola campione, lui è un campione, quello che ti fa, non dico il miracolo, la cosa giusta, il momento giusto, quando veramente non c'è più ossigeno nell'aria, nella palestra, sì. Super campione. Cos'è che mi dicevi prima, Francesco, fuori, su Basile? Beh, su Basile che assolutamente non c'è Bryant, Wade che tenga. Io se dovessi scommettere qualcosa, dovessi provare a vincerlo e dovessi affidare a qualcuno un tiro, io lo do al Baso. Anche oggi, anche se è del 75. Ecco, coach. Ma assolutamente, cioè proprio, perché sai, Basile è come i grandi campioni, nel senso che non ha paura, non ha nessuna influenza negativa su di lui, il punteggio, il tempo. Premier, insomma, come premier. Come premier, cioè proprio lui, uomo senza paura, cioè proprio impavido, cioè proprio veramente. I campioni sono di questa stoffa qua, ce l'hanno dentro e nel DNA, viene con, come dicono in America, con l'equipaggiamento originale, viene proprio impiantato questo CD nel DNA di loro e lui ce l'ha. Certo, poi torniamo su Cantù, però visto che, come si dice in America, dice coach Dan Peterson, cosa si è detto nella notte in America? È successo un casino epocale. Epocale, è successo di tutto, nel senso che i tifosi di Los Angeles Lakers e gli appassionati di basket si sono addormentati pensando, bene, Chris Paul, vale a dire uno dei primi 5-10 giocatori del pianeta, il più forte playmaker del pianeta, si è trasferito ai Lakers e giocherà con Bryant. Poi tutti questi, ci siamo tutti svegliati e no, questa cosa, questo matrimonio non sa da fare, c'è stato il veto e la parola d'ordine oggi è stata quella pronunciata da Tim Frank, portavoce della NBA, che ha detto il trasferimento non c'è stato for basketball reasons, che diventa una scusa ottima per qualsiasi cosa a questo punto e in questa stagione. Non vuoi lavare i piatti perché basketball reasons, qualsiasi cosa, questo vale. Bisogna dire che New Orleans non ha un proprietario, ovvero è la stessa Lega, la stessa NBA ad essere proprietaria dei New Orleans Hornets e avere posto un veto al trasferimento, alla cessione del suo miglior giocatore. In cambio di Odom e Pau Gasol, era tutto fatto, è arrivato Stern e ha detto non si fa più niente, coach. Guarda, ovviamente è una lunga storia che mi state chiedendo una risposta flash, però è una cosa estremamente complicata. Innanzitutto le New Orleans Hornets sono l'unica squadra di proprietà dell'NBA, perché il loro proprietario, George Shinn, che è fallito a Charlotte e l'è spostato a New Orleans, non riesce a far fronte alle cose, e l'NBA gestisce, vuol dire gli altri 29 proprietari sono i proprietari anche della New Orleans Hornets. E ovviamente ci sono tanti piccoli mercati, dice, ma chi siamo noi? Cittadini di seconda classe, cioè LeBron James lascia Cleveland per Miami, un mercato importante, Pau Gasol ha lasciato Memphis per Los Angeles, mercato importante, cioè Amar'e Stoudemire è andato a New York, mercato importante, Carmelo Anthony è andato a New York, mercato importante, noi piccoli mercati non vogliamo subire questo qui, e hanno avuto la voce grossa, tanto per dire, l'NBA, e l'NBA, David Stern è semplicemente la voce che rappresenta tutti i proprietari, e la maggioranza non voleva questo qui per l'equilibrio dell'NBA, perché ricordati che quando Pau Gasol è andato da Memphis a Los Angeles Lakers, Greg Popovich, allenatore importantissimo di San Antonio Spurs, ha detto che l'NBA deve fare qualcosa, quindi oggi forse la sua voce, 4 anni dopo, viene sentita. È chiaro che hanno detto basketball reasons, non vogliono disturbare, secondo me, l'equilibrio tecnico nell'NBA. Giusto, sbagliato, questo è il motivo. Sì, poi bisognerà capire come l'ha presa Chris Paul. Non bene, fra l'altro. Ma tutto questo, Carlo, nasce negli anni 80, inizio anni 80, quando c'era a Cleveland un proprietario di nome Ted Stepien, che scambiava le prime scelte come fosse le noccioline, sì, per mediocri giocatori a Dallas, sempre c'è Mike Brass. Chi è Mike Brass? Nessuno mai sentito. Prima scelta per Mike Brass. E finalmente l'NBA è intervenuto e ha detto: ehi, tu non fai più niente senza il consenso dell'NBA. Quindi già c'è una precedenza per questo, per i proprietari, le società che secondo loro, l'NBA, non sanno gestire le cose. In questo caso sta applicato qui con New Orleans, che è proprietà dell'NBA stessa. L'NBA gestisce New Orleans Hornets. Ovviamente qualcuno può dire conflitto di interesse, l'NBA cerca di... È chiaro, e queste sono le voci che vengono fuori. Brutta situazione per l'NBA, posizione molto scomoda, e mi dispiace per loro. Grazie della lezione, professor Peterson. Ecco. Ci sentiamo venerdì, coach. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Buon ciao, ciao coach. Ciao. Grazie coach. Abbiamo ancora un minuto prima del traffico, Francesco. Lezione di management NBA. Sì, anche se il conflitto di interesse ovviamente permane, perché il portavoce NBA ha utilizzato questa formula che dice tutto e dice niente. Basketball reasons. Cosa c'è di più aleatorio, di più vago? E ovviamente, al di là dell'oceano, Larry Kuhn, che è il guru del salary cap, uno dei giornalisti più importanti degli Stati Uniti, sta già parlando di petizioni, eccetera, eccetera. E qualcuno ha detto: ma se i giocatori avessero dovuto votare per ratificare il nuovo contratto NBA dopo la decisione dell'NBA di fermare uno di loro, vale a dire Chris Paul, dal suo desiderio di andare a Los Angeles, come sarebbe andato il voto? Sì. Voi capite gli scenari, come si amplificano, come le onde. Beh, tante cose finalmente stanno succedendo. Si gioca poi però a Natale, finalmente. Finalmente, appunto, tante cose stanno succedendo dopo questa decisione. Tra l'altro c'è un mercato in ebollizione. Questo è il caso più eclatante. In totale ebollizione, poi approfittiamo anche della presenza di Francesco Bonfardeci per fai anche un paio di domande di basket NCAA. Anzi, se ne avete voglia, fatele voi. 800-24-00-24, numero verde, messaggi 349-238-6666. Ne ho già ricevuti diversi, tra cui, e torniamo anche ovviamente sui temi interni, sul fronte interno. Milano che fa? Aspetterà Italia NBA o farà qualcosa prima? Domanda, credo anche un po' in maniera accorata, Francesco, abbonato Olimpia, così si firma. Milano fuori dalle top 16, si deve fare molte domande, soprattutto Scariolo, scrive Daniele da Bologna. Palla spicchi. Vi invito ad andare a vedere il video, naturalmente noi non possiamo farlo vedere per radio, ma vi invito a cercarlo, il video che accompagna questa voce, quella di Shaquille O'Neal nello spot per TNT. Shaquille O'Neal che è passato... Scende la lacrimuccia, qui. perché per il fatto che è passato dietro, esatto, il microfono, esatto, sarà commentatore delle partite ed è la faccia di TNT per NBA con questo meraviglioso balletto. Favoloso. Ti manca già, mi dicevi, sì, prima. Sì, mi manca assolutamente. In questi ultimi anni stiamo perdendo dei personaggi meravigliosi per il ritiro. Prima Rashid Wallace, adesso Shaq, che l'anno scorso era salito sul palco della Boston Pops Orchestra, sì, per dirigere l'orchestra, si era camuffato e travestito da donna per Halloween, aveva fatto delle cose meravigliose. Cercatene in rete perché vale la pena. Senti, tanti domandano anche sulla nostra pagina Facebook, mi segnala Franco Piantaneda, e così ricordo che possiamo interagire anche attraverso quella. Cosa farete, cosa farà Sky per questa stagione NBA? Tre partite a settimana, confermati gli studi, la presenza fissa quotidiana su Sky Sport 24 con gli highlights a partire dalla mattina per una stagione che comincia il giorno di Natale. Ovviamente noi la seguiremo da qui fino alla fine, ovviamente fino alla ipotetica gara 7 delle finals. E attenzione, altro appuntamento importante, non è saltato come era accaduto nel precedente lockout l'All-Star Weekend, che è in programma ad Orlando alla fine di febbraio, è sempre un bel vedere. Pool di voci? Pool di voci, beh, le classiche, in attesa dell'ufficializzazione di quanti non hanno ancora un accordo firmato o non hanno ancora ufficializzato la loro presenza per la stagione. Dicevamo del mercato, del mercato NBA, anche lì molti ascoltatori ce lo chiedono via SMS. Voglio sentire anche però le vostre voci, eh? 800 24 00 24 numero verde. Cosa succede, cosa è successo fin qui? Anche perché, insomma, prima si diceva lockout, ok, si comincia il giorno di Natale. Però molte squadre NBA devono essere di fatto ancora costruite. Assolutamente sì, anche perché per esempio c'è la questione legata ai giocatori che sono andati a giocare in Cina, J.R. Smith, Wilson Chandler, Kenyon Martin, anche perché la Lega cinese, a differenza delle altre, ha detto no, se voi firmate restate fino alla fine della stagione. La hanno fine della stagione è marzo. Fesso. Esatto, in cinese non so come si dice però, e non mi avventuro neanche nel napoletano perché sarebbe una cosa veramente di basso livello, il concetto però è quello, quindi bisogna vedere, anche perché la NBA fa parte della Federazione Internazionale. CP3, ovvero Chris Paul, ha occupato la notte. Bisognerà vedere se stasera alle 20 italiane si presenterà al training camp dei New Orleans Hornets e che cosa faranno Pau Gasol e Lamar Odom, quasi in lacrime al momento alla notizia della cessione, in un'intervista radiofonica negli Stati Uniti questa notte. Poi ovviamente gli altri sono passati un pochettino in seconda fila, persino uno come Howard, che vorrebbe, sembra, dicano le ultime voci, trasferirsi ai New Jersey Nets. Anche Howard, pezzo pregiatissimo, per intendere, c'è quello che all'All-Star Game si è infilato il mantello di Superman, sì, e ha vinto la gara delle schiacciate, è lui, eh? Ed è anche quello che i Lakers vorrebbero per completare, cioè avrebbero voluto in tutti i loro sogni Chris Paul a fare il playmaker, un certo Bryant magari, un certo Howard, ecco. Poi però bisogna anche trovare lo spazio, i soldi per completare la squadra. Miami insegna che messi assieme le LeBron James e Chris Bosh, poi restava non molto per mettere le mani sugli altri. Questo è per te, NCAA, Duke, la squadra dei parenti può vincere al Final Four. La squadra dei parenti lo spieghiamo, sì, perché in squadra giocano Austin Rivers, vale a dire il figlio dell'allenatore dei Boston Celtics, Doc Rivers, assoluto prospetto NBA, come si dice, una capacità di crearsi un tiro da solo davvero unica nel college basketball, forse quest'anno. E poi perché c'è Seth Curry, che è il fratello di Stephen Curry, che è quella mitragliatrice umana, sì, che gioca a Golden State, e il figlio di Del Curry. La Duke dei parenti, con Coach K, Mike Krzyzewski, non è probabilmente al livello delle primissime, però è un sistema che arriva sempre in fondo, cioè vuol dire che quando inizia la March Madness, la follia di marzo, la fase finale, sì, della stagione, ce la ritroviamo sempre e comunque, un bel vedere anche quella. Volevo anche dirti, sottolineare e ricordare l'emozione a proposito di NCAA di vedere quella partita inaugurale, che è stato qualcosa, sì, di storico. Ecco, è stato uno di quei momenti, tanti o pochi, in cui invidio con intensità gli americani, perché costruire e creare un evento di quel tipo è davvero una cosa straordinaria. Hanno un certo talento nell'organizzare questo tipo di cose. Si sono messi assieme varie cose, ovvero il Veterans Day negli Stati Uniti, e quindi la giornata in cui si onorano tutti i cittadini americani, sì, che hanno indossato una divisa in tutte le guerre, in tempo di pace, in tempo di guerra. Poi uno schiaffo a quelli che non cominciano. Mettiamoci anche quello. Mettiamoci anche quello. Un luogo assolutamente unico, vale a dire il ponte di lancio, la portiere Carl Benson. Per intenderci, è il luogo dove è stata effettuata la portiere, dove è stata effettuata la sepoltura in mare di Osama Osama Bin Laden, quindi un luogo significativo nella recente storia degli Stati Uniti. Hanno messo due squadre a caso, vale a dire Michigan State, che da anni è sempre al vertice, quest'anno un po' meno, e North Carolina, che all'inizio della stagione era la numero uno del ranking. In più c'è anche un discreto appassionato di pallacanestro come il Commander in Chief, Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ascolta, visto che stiamo parlando di questo, che gli ascoltatori sono particolarmente attivi anche su Facebook, c'è Mauro Cavallini che scrive: mi sapete dire come funziona in quanto a date l'attuale mercato NBA? Quando ci saranno i tagli? No, perché diverse squadre europee e italiane aspettano che qualche briciola cada dal tavolo e magari qualche pagnottella. Così scrive. Magari qualche pagnottella. Lo spera Mauro Cavallini. Un bagel a questo punto, un donut, una specialità, un dolcetto americano, qualcosa del genere, un dolcetto scherzetto. Beh, intanto la cosa nuova di questa stagione, post lockout, la prima di questo secondo lockout, col nuovo contratto decennale, è che training camp, gli allenamenti praticamente, e free agency, ovvero il momento della stagione in cui i giocatori senza contratto contrattabili possono andare sul mercato, si sovrappongono e comincia oggi. Avete già visto che cosa è successo con Chris Paul. È curioso il fatto che il mercato europeo vada al contrario adesso, nel senso che prima c'è stata la corsa per cercare di accaparrarsi tutti i giocatori che scappavano dagli Stati Uniti, e adesso ci sarebbe il contrario con quelli che non riescono a trovare un contratto. Certo. Per parlare dell'impatto basta dire che un giocatore di medio livello NBA, uno che non ha mai messo un'impronta piuttosto profonda come Von Wafer, un giramondo, sì, del campionato italiano a 20 di media, è subito diventato il miglior realizzatore. Certo, certo. 800 24 00 24, se volete intervenire, Francesco Monfardeci da Sky a Radio 24, oggi almeno. Ci sono anche quelli che magari sono arrivati, hanno fatto tante promesse, magari resto, sto qui, mi trovo bene, come mi viene in mente Scalabrin, che ha tradito Treviso mandando su tutte le furie Sasha Georgievich, perché questo insomma era un giocatore che ha guadagnato molto negli Stati Uniti per molti anni per sventolare asciugamani, è arrivato qui, ha scoperto cosa voleva dire fare il giocatore di basket, ha detto meraviglioso Treviso, che bello il basket italiano, la mia dimensione, sono a casa mia, eccetera eccetera eccetera, ha giocato forse la miglior pallacanestro della sua vita, poi a un certo punto ha detto domani parto, ma stai, giochiamo dopodomani, dopo magari vai via, no, domani parto. Succedono anche queste cose. Succedono queste cose, e Carlo, fa tornare un pochino alla mente le fughe dei giocatori americani degli anni Ottanta, quella clamorosa con l'inserimento del coach Peterson ai vari americani, Antoine Carr, eccetera, per cercare di bloccarli prima dell'arrivo a Malpensa. Sì. Poi dipende anche da come ti lasci, eh? A Deron Williams, che ha chiuso con il Beşiktaş e l'ha messo sulla carta geografica del basket europeo, hanno ritirato la maglia per una frazione di stagione. Sì. Tale è stato l'impatto. No, certo, a fughe NBA mi vengono in mente appunto quelle famose del passato, non a caso ci è stato archivato, pochissimi se lo ricorderanno, appunto una storia anni 80, però questo era uno che scappava in continuazione. Sì. Pesaro, arrivo, gioco, scappo, arrivo a Milano, scappo, eccetera, eccetera. E non era così infrequente in quegli anni. No, e adesso lo fa Scalabrini, presto se ne andrà probabilmente anche Murda da Treviso che si trova lì già. Sta facendo abbastanza fatica, dovrà rifare la squadra, e ci sono queste voci su Gentile, sì, per si ritorna a Milano, no? Temi nostri, no? Si ritorna a Milano e si ritorna a Milano, e Gentile si scrive, si legge e si sa nel mirino dell'Armani. Ma secondo te potrebbe servire all'Armani in questo momento di emergenza totale? Potrebbe servire il miglior prospetto italiano, sì, a questo punto, però a Milano serve qualcosa di pronto subito, secondo me. Beh, per l'età che ha, Gentile ha numeri paragonabili a quelli che poteva avere Danilo Gallinari nel momento in cui è esordito in Serie A, e ha numeri migliori di quelli che alla stessa età potevano avere Andrea Bargnani e Marco Bellinelli, tanto per restare su quel tipo di talento, e parlando di tre giocatori che poi sono andati a giocare nella NBA. Sul fatto che Gentile possa essere la soluzione dei problemi di Milano, non lo so, nel senso che Milano mi sembra che abbia altro tipo di problemi, e più che cercare giocatori nuovi, diciamo che non riesce a far rendere al meglio, non riesce a vincere partite che dovrebbe vincere con i giocatori che nuovi sono comunque, perché sono arrivati quest'anno. 800 24 00 24, se volete intervenire. Intanto continuo sui temi interni e sul tema Milano, secondo me, caro Francesco, perché insomma, ne abbiamo accennato prima in apertura, però la crisi di Milano è non so quanto profonda, però è vera, perché praticamente fuori dall'Eurolega e poi con problemi strutturali. È andato via Danilo Gallinari, come ben sappiamo. A proposito, qual è stata la tua impressione su questa avventura italiana di Gallinari. La mia sensazione è che non sia stato semplice dal punto di vista psicologico per Danilo e per coach Scariolo gestire comunque questo tipo di situazione, perché Scariolo era stato molto chiaro all'inizio della stagione: noi non vogliamo diventare gallo dipendenti. Danilo è un giocatore molto disciplinato, si è inserito in un sistema in cui è chiaro che non aveva bisogno di doversi trovare con 35 minuti, 20 tiri e 25 punti alla fine. Dal punto di vista psicologico penso che sia stato un equilibrio non facile da trovare. Se lo guardiamo sul campionato, dico solo che Milano, con Danilo Gallinari protagonista, ha battuto dopo 21 sconfitte consecutive la squadra più forte d'Italia. Ma se lo guardiamo in Eurolega, è come se qualcosa si fosse spento quella sera lì, fosse calato. Da quel momento è successo qualcosa, esatto, dal punto di vista dei risultati. Questo lo dicono i risultati, perché tre giorni dopo Milano si è praticamente suicidato in Eurolega perdendo quella partita con il Partizan, e tra l'altro la sconfitta del Partizan in Belgio ieri, che è una partita tremendamente importante per i serbi, dà in qualche modo ancora di più, se vuoi, la misura di questo errore milanese. Allora torniamo agli ultimi 5 minuti della partita col Partizan, chiaro, quando Milano letteralmente si è sparata su un piede, perché praticamente è una partita già vinta in cui i giocatori avevano già staccato la testa probabilmente da quella partita, e che alla fine potrebbe compromettere qualsiasi cosa. L'impatto in Eurolega, si era detto, Danilo deve arrivare per portare la squadra alla top 16, è veramente una speranziella, però i calcoli li hai detto tu prima, li ha ribaditi il coach Nostradamus. Sì, più o meno sì. Siamo alle divinazioni. C'è anche chi scrive, un altro Francesco, non Bonfardeci, naturalmente, via SMS: ho visto Von Wafer domenica, 20 di media prendendosi 40 tiri e non passandola mai, che torni in America. Sì, il nostro ascoltatore. Vero, però bisogna vedere chi sei, che tipo di giocatore sei, in quale squadra giochi, con che sistema e che cosa ti chiede di fare quella squadra. Dunque adesso ci fermiamo per la borsa, ma poi torniamo insieme, ci aspetta un ospite, insomma direi che è l'uomo della settimana quello che arriverà al telefono dopo la borsa. Palla spicchi. Vediamo cosa succede in questi 2 secondi, punto 9 di partita. La rimessa sarà affidata a Mitsov, prova a liberarsi Shermadini, marcato da Panic. L'arbitro chiede a Fischer di staccarsi, deve rispettare ovviamente la distanza per concedere la rimessa a Mitsov. C'è Lunen pronto a ricevere sull'arco, anche Manzarino taglia, Basile prova a tirare da distanza, Sidorale, oh! Segna Gianluca Basile, una bomba incredibile, più 3 Cantù, incredibile, Basile! Matteo Gandini da Sport Italia, che ha raccontato quanto avete sentito. Sempre con me Francesco Bonfardeci da Sky invece, e al telefono con noi credo l'uomo più felice del basket italiano oggi, direttamente dal primato del gruppo A dell'Eurolega, coach Andrea Trinchieri. Ciao coach, grazie. Ciao a tutti, buongiorno. Un gradino alla volta, senza scorciatoie. Arriva tutto se te lo meriti, compresa la prima vittoria in trasferta di Eurolega. Forse questa può essere l'ennesima lezione. Ma guarda, io parlarne ho ancora un po' la pelle d'oca, perché da esordienti riuscire a qualificarsi alle top 16 con 2 giornate d'anticipo, ma io penso che neanche quelli che sono con la camicia che si con i bottoni dietro alle camicie di forza potevano prevederlo. Quindi diciamo che abbiamo fatto le formichine, abbiamo imparato con le cicatrici, abbiamo comunque, secondo me, la chiave di tutta la stabilità delle partite casalinghe, che abbiamo sempre giocato con grande determinazione e non ci siamo mai spaventati. E poi da vittoria andiamo a Fenerbahce, andiamo a Nancy, e poi alla fine se sei lì sempre allacciato, poi qualcosa ti rimane tra le mani. Francesco. Buongiorno coach, volevo farle un paio di domande, prendendo per assodato il fatto che in realtà per Basile quello è un tiro facile. Non voglio dire che sia un appoggio al vetro durante la ruota di riscaldamento, ma ne ha segnati veramente tanti. Volevo chiederle questo: la fatica del doppio impegno, che magari si ripercuote sul campionato, quanto si sente anche a livello mentale per staccare dall'Eurolega, riallacciare invece i contatti col campionato, tornare a pensare all'Eurolega, quanto incide dal punto di vista mentale e fisico anche su di lei, nel senso che è un'esperienza tutta nuova per Cantù. Beh, anche perché Cantù vive di un'intensità emotiva che pare superiore, per il suo superiore, no? E comunque superiore al resto di tutta Italia, certo. Forse. Ma io parliamo da quello che posso dirti direttamente, che per me è una fatica pazzesca, perché a me mancano tutti gli allenamenti che avevo per preparare la squadra in modo certosino al singolo appuntamento settimanale. E mi rendo conto come adesso la parte di preparazione è ridotta all'osso, e la chiave di tutto è avere una capacità di sintesi in quello che trasmetti alla squadra, perché se prima potevo trasmettere 10 concetti, adesso se arrivo a 3 sono fortunato, e quei 3 devono essere quelli vincenti, quindi anche le mie scelte di proposta tecnica o tattica devono essere più che perfette, perché alla fine quando scegli 3 cose e non sono quelle prioritarie, poi ti rimane niente in mano, quindi per me è molto molto difficile, però è una scuola di vita fenomenale. Per la squadra, non essendo noi proprio strutturati, perché se tu noti tutte le squadre di Eurolega hanno 3, 4, 5, 6, 7 veterani di Eurolega, noi ne avevamo solo 2 e in 2 fanno quasi 74 anni, quindi che sono Basile e Marconato, e questo ci ha succhiato tantissime energie per competere e le abbiamo pagate in campionato. Adesso secondo me siamo tutti felicissimi, perché comunque è un traguardo straordinario, però adesso la qualificazione ci deve dare una spinta per poterci concentrare e rimediare un po' a qualche scivolone del campionato. E volevo chiederle anche questo, mentre mi sembra di capire che quasi si avvicina all'NBA style, no? Per cui ti alleni mentre giochi, hai pochissimo tempo tra una partita e l'altra, quando c'è anche l'Eurolega. Due cose su due giocatori, ovvero Shermadini, che anche nei finali di partita ha risolto più di una gara quest'anno a Cantù in Eurolega, se se lo aspettava così, e una parola su David Light e su quelli che sono i problemi di inserimento di un ragazzo che arriva anche da un college importante come Ohio State e che adesso è stato rilasciato. Esatto. Glielo devo. Allora, David Lighty non ha sbagliato niente, non ha avuto nessun tipo di problematica di inserimento, ragazzo con attitudine, valori, qualità straordinarie, è solo rimasto vittima di una situazione che non dipendeva da lui, l'infortunio di Šekić e un mio piccolo errore, piccolo, grande, enorme, ai posteri larga sentenza, errore di valutazione, che Basile è molto molto più efficace da guardia che da supporto al playmaker, quindi Lighty è un signor giocatore e averlo mandato a Cremona mi è costato tantissimo, perché era molto integrato in questo gruppo, e quello che ho detto alla squadra nel giorno che David ha lasciato la pallacanestro Cantù è che era un giorno triste per me, perché tutti gli altri avevano avuto più o meno un'opportunità di dimostrare il loro valore, invece Lighty, per colpa mia, e mi assumo tutte le responsabilità, non ha avuto i minuti per dimostrare il suo valore, anzi le 3-4 volte che è stato in campo con continuità ha prodotto ottime cose, quindi forse la cosa che mancava a Lighty, ma non poteva essere diversamente, il produrre tanto in poco tempo come sanno fare i veterani e i giocatori di esperienza. Adesso con l'arrivo di Gianella, coach, sarà possibile mettere un po' in ghiaccio Basile oppure no? Ma perché devo metterlo in ghiaccio? Perché in questo modo, cioè, non, io, adesso secondo me saremo un po' più equilibrati, perché avremo due playmaker, due guardie e due ali piccole, quindi riusciremo a gestire i minuti in modo più facile. Per chiudere, coach, penso che un'altra lezione di Cantù, una delle tante lezioni, sia il fatto che in una squadra che funziona, funzionano al meglio anche quelli che arrivano e vengono metabolizzati subito, al di là del discorso Lighty che è contingente, però non tanto per Basile, ma mi viene in mente uno, Marco Svili, quando arrivò a Cantù, beh, questo però alti e bassi, è andato, tornato agli Stati Uniti, in fondo promessa fino a un certo punto mantenuta, arriva a Cantù e riesce a rendere al massimo dei suoi standard. Discorso che vale per Shermadini e per tutti quelli che passano dalle tue parti. Cermadini, non ho fatto tempo a rispondere, ma rispondo adesso. Cermadini ha una grandissima qualità, è un lungo molto lungo, scusate la forzatura grammaticale, che è 2,16 veri, e ha una capacità di verticalizzare l'azione, cioè di andare a canestro molto molto velocemente, e questo fa coagulare le difese attorno a lui. È quello che lui è molto bravo a finire le nostre azioni, perché si trova con delle buone spaziature ed è circondato da buoni tiratori, quindi le difese fanno un po' fatica a fare una scelta, cioè lasciare Mazzarino o Basile o seguire Cermadini. Lui è giovane, però ha avuto buoni allenatori, in primis ovviamente il numero uno che è Obradovic, e ha ancora grandissimi margini, specialmente nella sua tenuta emotiva, perché come tutti i georgiani è un giocatore che si emoziona tanto, quindi è pazzesco come lui può fare 100 su 100 ai tiri liberi, poi segna il primo per vincere la partita e riesce anche a litigare con Fischer e prendere il tecnico e il sbaglio il secondo, e lì volevo bruciargli la macchina, purtroppo la macchina era della società e quindi ho fatto bene a non farlo. Senti, sul discorso che ti facevo prima invece, cioè sul fatto che noi abbiamo un sistema molto chiaro dove non ci sono stelle, ma perché non ce le possiamo permettere, e la stella è la squadra, quindi se ogni giocatore dà il meglio di se stesso in uno spartito dove i ruoli sono chiari, e adesso sicuramente con Gianella i ruoli sono un po' più chiari, penso che ogni giocatore può mettere in mostra la sua mercanzia. È una cosa molto semplice, molto più semplice di quello che si pensa. Semplice a dirlo, a farlo magari un po' meno, caro coach Andrea Trichieri. Senti, prima o poi smetterò di farti la corte e riuscirò a farti venire qui un venerdì pomeriggio a rispondere agli ascoltatori. Venerdì pomeriggio devo fare allenamento. Cioè, lo so, sono anni che me lo potresti dici. Potresti fare comunella con i miei giocatori, che sarebbero contentissimi di non avere uno spaccapalle anche al venerdì, ecco. Parlo io con Bruno Arrigoni, vediamo di sistemare le cose. Va bene, sì, però... volontariamente ospite. grazie davvero coach Andrea Trinchieri, che... Salve, coach. Un abbraccio. Che dovrà, caro Francesco Bonfardè, allargare la mensola sul caminetto con tutti i trofei da allenatore dell'anno che gli arrivano. Ah, beh, sì. Assolutamente sì. Adesso ci fermiamo, cosa dite? Ci fermiamo un attimo per il traffico, e poi arriva anche Flavio Tranquillo, che nel frattempo ci ha anche fatto pervenire un messaggio su Facebook con scritto cosa, ve lo dice lui dopo. Palla spicchi. Torniamo qui con me Francesco Bonfardeci e appunto Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buondì. Ciao Flavio. Buondì. Buondì. Pagnottelle poche, occhio alle nuove regole della D-League. Sì, questo, perché prima avete citato la domanda di quell'ascoltatore che voleva sapere se cadranno briciole o pagnottelle dalla tavola dell'NBA. Cosa cade? Cosa cade? Ma per adesso non cade proprio niente. Cosa non cadrà? Cade niente, perché qualsiasi giocatore che ha una qualsiasi chance, anche solo una su un miliardo, di provare a spuntare un contratto al training camp, va al training camp. In più, ancora noi non conosciamo, perché è stato ratificato solo ieri il testo originale del nuovo contratto, ma per quelle che sono state le anticipazioni si parla di un aggiornamento della situazione di league, per cui anche i giocatori al terzo anno di NBA potranno essere posteggiati in D-League. Questo significa che una squadra potrebbe mettere all'interno di un roster a 15 con un contratto al minimo un giocatore, se prima avete parlato di Lighty, pensiamo a Lighty della situazione, se un allenatore NBA si innamora di Lighty, ed è tutt'altro che impossibile, e Andrea vi ha spiegato perché, lo prende, lo mette lì e magari gli fa fare un anno in cui gioca 10 partite in NBA e 50 in D-League, oppure anche a Lee uno che se non potesse mettere in D-League taglierebbe, ma adesso ha una chance in più perché ha un anno in più per mandarcelo. Credo che alla fine significherà meno pagnottelle per l'Europa. E pagnottelle che invece scappano, ma anche giocatori, proprio per le ragioni che spiegavi, che alla fine potrebbero essere molto marginali o addirittura non fare la squadra nell'NBA. Prima citavo Scalabrin, no? Che ha lasciato in braghe di tela Treviso, comportandosi peraltro neanche bene, mi dicevano, Treviso che presto perderà Moore, insomma la diaspora neanche uguale, superiore e contraria rispetto a quella che c'era stata prima. Soprattutto in tempi completamente diversi, esatto. Noi siamo abituati ad avere questa questione attorno a ottobre, quando si fanno i training camp, e quindi lo Scalabrini, il Moore, l'Adrian della situazione non pensa neanche di venire. questa volta essendosi spostato tutto in avanti, senz'altro avrà appunto un riverbero importante. Dicevi, Francesco? Sì, che per quanto riguarda le pagnottelle direi che è stato chiarissimo Flavio. Mi premeva, Flavio, farti una domanda alla luce di quello che è successo nella notte, ovvero le basketball reasons che sono alla base della decisione dell'NBA eccetera eccetera di stoppare il trasferimento di Chris Paul ai Los Angeles Lakers, che è la notizia bomba della notte. Ma soprattutto, se posso aggiungere, in tempi così ristretti e quindi con questo tipo di esasperazione tra virgolette, di necessità, ne vedremo delle altre di situazioni di questo tipo? No, non ne vedremo delle altre per l'elementare motivo che la Lega è proprietaria solo di una squadra e non delle altre 29, altrimenti sarebbe un bel problema. Diciamo che si è prodotto un caso limite, diciamo che, ma intanto metterei una predefinizione. Questa è la cosa più importante che io mi ricordi che sia mai successa a livello NBA, cioè notizia bomba per una volta è un understatement. Questo è un qualcosa che lascerà degli strascichi tra 15 anni, tra 20 anni, tra 25 anni, anche perché mi sembra il primo momento in cui veramente l'NBA si comincia a porre il problema di come sarà la nuova fase, che non credo comprenda David Stern, che poi magari se ne andrà tra 10 anni, ma non David Stern per ragioni anagrafiche, perché vorrà farsi almeno una 20 anni da pensionato dopo tutte queste fatiche, e perché se succede una cosa come quella che è successa ieri con l'email di Gilbert che passa direttamente dal suo computer a quello dei media che lo sparano in 5 continenti, è perché evidentemente la compattezza è molto limitata e non è bastato trovare l'accordo per far finire il lockout per ritrovare la compattezza. Ecco, Flavio, Gilbert, proprietario dei Cleveland Cavs, in questa mail che è stata intercettata da CNN, dal New York Times, parla apertamente di farsa e fa un paragone tra quello che sarebbero diventate le altre squadre della NBA nel caso in cui ci fosse stato l'avallo a questo accordo, li paragona ai Washington Generals. Se una volta nella vita siete andati a vedere gli Harlem Globetrotters, sapete che i loro avversari, quelli che perdono sempre, che sono abbastanza ridicoli per contratto, pagati per perdere, sono i Washington Generals. Quindi Gilbert ha mandato una mail a Flavio dal contenuto esplosivo, molto forte, perché la parola farsa rende bene l'idea di quello che sta succedendo e che è successo. Sì, ma sono sicuro che nel computer di David Stern e in quello di Gilbert ci sono mail anche più esplosive. Il problema è che per spostarsi da uno di questi due computer al nostro bisogna che qualcuno schiacci il tasto invio e le mandi a un rappresentante dei media, perché noi normalmente non le leggiamo né da fruitori né da rappresentanti dei media. Quindi sì, il termine farsa è forte. Il fatto delle 25 su 30 che sarebbero i Washington Generals, forse io sono un po' troppo numerologo, cabalistico o appassionato di altri campi, ma è abbastanza curioso che 25 su 30 sia anche il numero di quelli che hanno votato a favore dell'accordo sempre ieri, con 5 proprietari che hanno votato contro. Voi pensate che Gilbert sia uno di quei 5? Che ne dite? Invece l'intervista, altro insomma altro highlight di questa settimana, di questi primi giorni ufficiali di NBA, l'intervista di LeBron James ESPN. LeBron James, come scriveva Massimo Riani oggi sulla Gazzetta dello Sport, una seduta di psicoanalisi pubblica di questo giocatore che ha detto molte cose: la finale è persa, un trauma, sono rimasto 2 giorni chiuso nella mia stanza, non volevo parlare, 2 settimane nella mia stanza, non volevo parlare con nessuno, sono stufo di passare per il cattivo, ma sono pentito, se tornassi indietro non rifarei quello che ho fatto nei confronti dei tifosi di Cleveland, li capisco. Intervista a cuore apertissimo di LeBron James, che effetto ti fa, Flavio Tranquillo? Ma intanto tendo a dare il giusto peso alla psicanalisi pubblica, secondo me quella privata è un po' più veritiera. Sì. Quindi diciamo che secondo me LeBron James ha detto quello che noi ci aspettavamo che potesse dire, dovesse dire e sapesse dire dopo tutto quello che è successo. Gioco delle parti. A me ieri, dopo aver sentito l'intervista, è capitato di avere luzzo di andarmi a riprendere tutti i minuti che ha giocato in gara 6 di finale, naturalmente, mai limitarsi a una partita. Però non capita normalmente di avere il tempo e il modo di guardarsi per 40 minuti di basket un solo giocatore. guardando quei 40 minuti, onestamente mi sono venuti dei dubbi sul tipo di effort, si dice in inglese, di sforzo che lui ha fatto dentro questa partita. Secondo me sono venuti dei dubbi anche ai compagni, perché ci sono due o tre situazioni abbacinanti in cui potrebbero dargli il pallone e non glielo danno, ci sono due o tre situazioni abbacinanti in cui si aspettano un aiuto che non arriva ed è lo stesso giocatore che magari l'azione prima o dentro la stessa azione è stato anche il miglior difensore della partita, perché se vuole, quando lo fa, è il miglior difensore dell'NBA. Miglior attaccante non lo so, ma miglior difensore proprio con un vantaggio epocale sul secondo. Però ho degli enormi dubbi su quello che lui riesce a mettere, e al di là della psicanalisi pubblica temo che sia una questione più di fatti che di psicanalisi nel futuro, anche a breve. Dicevamo, Francesco Monfardeci, che c'è anche un aspetto tecnico interessante in questa intervista. Sì, quando l'ho sentita l'intervista di Rachel Nichols, poi ho letto il pezzo di questa mattina, Flavio, mi è venuta in mente una cosa che tu e Federico Buffa avete ripetuto più di una volta guardando giocare i Miami Heat nel corso degli ultimi playoff, ovvero: ma con quel fisico, quei centimetri, quei chili, quella struttura, ma perché non va a giocarsi e a prendersi qualche pallone in più spalle a canestro, visto che potrebbe avere dei mismatch favorevoli? Nell'intervista LeBron James dice che si è allenato nel corso dell'estate con Hakeem Olajuwon, grandissimo degli Houston Rockets degli anni 90, due titoli eccetera, per poter migliorare questo aspetto del gioco. Non è una novità, lo fanno anche altri, però magari qualcuno gliel'ha detto, Qualcuno gliel'ha detto di sicuro, però anche qui, senza voler rompere l'incantesimo, mi dà l'idea che lui sia andato da Olajuwon anche perché noi potessimo dire questo. Perché lo dico? Lo dico per due motivi. Il primo è che, se andiamo ad analizzare i possessi in post basso di LeBron, sono molto pochi rispetto a quelli che potrebbero o dovrebbero essere, ma di straordinaria efficacia. Per cui non è che debba imparare a giocare in post basso, deve andare a giocare in post basso. E qui arriva la seconda cosa. Non lo direi, ma è stato reso sostanzialmente pubblico, risultava a me che qualche suo allenatore precedente dicesse che alla richiesta a LeBron "ti spiacerebbe andare in post basso?" la risposta sia stata "no, grazie" più di una volta. E allora questa è tutta un'altra faccenda rispetto a non saper giocare o poter migliorare, posto che andare da Olajuwon ti fa sempre bene. Però se ne facciamo una questione di percentili, per esempio LeBron James è nel 91esimo percentile per efficienza dei giocatori di post basso NBA, è che ci va poco. Quindi è psicanalisi pubblica anche questa, Quindi è una parte di psicanalisi pubblica che è dovuta, vista la grandezza del personaggio. Però poi temo per lui, e con tutta l'ammirazione che è sconfinata, come probabilmente sapete, che oltre alla psicanalisi debba seguire qualcos'altro, altrimenti insomma. Flavio, ci sentiamo domenica noi, per tornare sui temi. Sarà fatto. Grazie. Ciao, grazie, Flavio. Tranquillo, domenica ciao, naturalmente ciao. 20:30-21 per raccontarvi i temi del nostro campionato come facciamo ogni volta. Nostro campionato che, caro Francesco, per chiudere, abbiamo ancora un minuto. Biella tanta roba. Biella, sì. Ad esempio. Biella tantissima roba, con un giocatore che arriva dal college, che sta facendo una stagione favolosa, che è Jacob Pullen, che arriva dalla scuola di Frank Martin a Kansas State. Mi fa piacere. Te lo aspettavi a questi livelli? Abbiamo parlato una settimana fa con il suo attuale presidente Marco Atripaldi. Loro non se lo aspettavano così, cioè vedevano un giocatore che aveva personalità, ma a questo livello, già a questo livello, probabilmente no. Assolutamente certo del fatto che potesse cercare di utilizzare quella cattiveria e quella personalità a questo livello, francamente mezzo dubbio ce l'avevo anch'io. Se abbiamo 10 secondi, visto che abbiamo parlato di Miami, ieri si sono riuniti un po' di bookmaker a Las Vegas, al Hilton, poi ci sono le quote dei bookmaker di Las Vegas sulla squadra vincitrice del titolo NBA 2012. Miami strafavorita, è data 2-1. Se volete fare investimento della vita, puntate Minnesota. Puntate un dollaro, ne vincete 200. Chance pochine. Chance pochine. Io però non ho dubbi, come l'anno scorso, ti farò contro Miami. Assolutamente. Quindi lo dichiaro in maniera pubblica, contro Miami. Francesco Monfardeci, grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti. Torna a trovarci presto. Franco Piantanini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Naturalmente venerdì prossimo ci sarà ancora Palaspeak, come tutti i venerdì su Radio 24, e domani ci sentiamo con lo sport dalle 17 alle 18, domenica dalle 16:30 alle 19 con il calcio, dalle 20:30 alle 21 per tornare sul basket. A domani.